Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Oggi ha detto Vladimir Luxuria auguri ai figli trans, e voglio dire a Vladimir Luxuria che se anche mio figlio fosse gay, trans, bisex, trisex, quadrisex, lo amerei come qualunque madre ama suo figlio, ma continuerei a essere contraria alle adozioni da parte delle coppie. Ok. Io sono veramente costernata. Io quando qualsiasi persona mi dice sono incinta, eccetera, eccetera, io dico sempre auguri a figli trans, come battuta, perché si diceva auguri a figli maschi, le femministe rispondevano no, auguri a figli femmine, e io ho detto vabbè, a questo punto pure io faccio auguri a figli trans. Questa è stata la prima volta in vita mia nella quale non ho saputo come rispondere, dico la verità, nel senso che ovviamente non immaginavo che una notizia così naturale, che una cosa così naturale, insomma, che io ho detto anche per l'entusiasmo della cosa in sé, potesse attirare su di sé tanta cattiveria, tanta rabbia. Viva la mamma, perché se ti parla. Se può servire alla Meloni per tranquillizzarlo un po', posso anche dirlo a Giorgia, auguri e figli italici, guerrieri, maschi di stirpe latina. Veramente, ragazzi, qui siamo in un mondo triste se non si può manco fare una battuta. Ma che ci vuole un'intelligenza superiore? Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Era una battuta, eccolo lì, finiti due giorni di polemiche. Vladimir Luxuria dice che anch'io ho ripreso ieri, ma Vladimir, spesso nostra ospite, ma che ti ha preso? Dice, ma io lo dico a tutte, auguri ai figli trans, si dice auguri ai figli maschi, altri auguri ai figli femmine, le femministe, io dico auguri ai figli trans. È una battuta. Ah, forse è proprio così, dobbiamo tutti fare un passo indietro, io per primo, e stiamo un po' esagerando su questa storia delle unioni civili, stiamo mettendo degli eserciti contro altri eserciti, piazze contro piazze, e invece guardate qui, ma altro che questa notizia, ma ce ne sono di oggi di notizie sui giornali, cari amici, intanto vi saluto ovviamente da 24 mattino. Per esempio, tutti i cronisti oggi si sbizzarriscono e vanno a cercare quelli che vivono nelle case comunali, del patrimonio comunale di Roma, in centro a 8 euro al mese. 8 euro d'affitto al mese. C'è la signora che paga 8,27 euro e dice ma il pane qui in zona è caro. Ma porca puttana. Il pane è caro. Ma Oppure la classica risposta di tutti questi inquilini, che non sono gente famosa, non è gente famosa, sono tutte persone normali, Ma che volete da me? Sono qui da 60 anni, no, mia mamma, io sto male. E io moro. Sì, perché quando... Poi magari sono quelli più indignati di tutti, il politico ruba! Poi quando gli si va a beccare nel loro, ma che volete da me? Ma io... È l'Italia, è così, in Italia si fa così. le regole valgono fino all'uscio di casa mia. Poi dentro l'uscio di casa mia non rompetemi la minchia. E poi vabbè, ce n'è un'altra, questa la devo subito commentare con i miei amici. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno caro Luca. Buongiorno. Eccoci qua. Come stai? Ti sei ripreso? Eccoci. Ti sei ripreso? Dal derby ti sei ripreso? Non far finta di essere un nerazzurro all'acqua di rose, un interista quando ti conviene. Quale derby? Quale derby? Quello di Salvini, hai visto Salvini come l'ha presa in maniera gioiosa e pacata, il rigore sbagliato da Icardi? Una volta devo dire, lo assolvo. Lo assolvi, dai, per il calcio. Perché si può. A parti rovesciate, l'avresti fatto anche tu, dai. Sì. Sentilo qui Salvini, sentilo subito, perché ha fatto io il gesto? Tifoso. Io sono tifoso, così come non condanno adesso se Mancini fa il dito medio, in campo ci sta anche qualche volgarità. Poi uno dito medio è il gesto dell'ombrello. Lo sport è anche gioia, anche sfottò, gioia, capito, è gioia, un bel gestore dell'ombrello, è gioia. Lui era allegro. Lui era il re della gioia in questo momento. Ma convochiamo subito la nostra! La nostra! Buongiorno! Paola Saluzzi, fammela sentire bene questa. Risentiamola che da un po' questa sigla di radio. Paola, sentila. E da mezzanotte la radio diventa Paola by Night. Con l'eco, Paola. Meraviglioso. Ricordo che questa sigla c'è. Certo, ce l'ha mandato un carissimo ascoltatore che ci ascolta dal Canada. Ragazzi, la sigla di Paola by Night. Allora, la passione si sente. E come se si sente? Eccoli, la passione si sente di Radio Paola. Come? Ho pensato molto entrambi al giorno della sera del derby. Sì, vabbè, ci hai pensato. Su posizioni opposte. La vita è così, c'è chi vince, c'è chi perde. Allora, ma la notizia vera del giorno è questa. Apriamo il Parlamento, dai, perché questa veramente è su tutti i giornali in prima pagina. Gramellini ci ha dedicato il buongiorno. Mario Giordano ha fatto un articolo in prima pagina, spassosissima, di Libero. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo è stato assolto dal giudice, palpeggiava le colleghe, proprio mani ovunque. Octopus. Ecco, Octopus, ma la motivazione è straordinaria, è immaturo. Il giudice è immaturo, no, ragazzi, io rido per non piangere. Aveva 65 anni, per la cronaca, quando è successa questa vicenda. È immaturo. E poi, sì, è vero, il giudice dice palpeggiava, toccava, metteva le mani, il dito nella camicia, toccava il sedere alle impiegate, ma non ha mai ottenuto un appagamento sessuale da questa cosa. Ragazzi! E tra l'altro Gramellini fa notare una cosa, cara Paola, il giudice, la giudice, estensore, è una donna. Quella che ha fatto questa, per carità, non conosciamo i dettagli. I dettagli vanno conosciuti, forse è veramente un giovanotto simpaticone, non cresciuto. Perché non sono smentite i fatti, cioè nella sentenza dice sì, è vero, toccava, infilava il dito nella camicia, ma non trovava pagamento sessuale, e soprattutto è immaturo. Questo lo rendeva immaturo? È immaturo perché non trovava pagamento sessuale. Caro Luca, è immaturo. Lui è immaturo, lei è imbecille, direi proprio. Dai, adesso non conosciamo ma non c'è niente da conoscere. Questa è irresponsabilità. Comunque, insomma, il buongiorno di Gramellini è questo Pulp Fiction, solo che Pulp è scritto proprio, è proprio Pulp, P-A-L-P, Pulp Fiction. La prossima volta gli si potrebbe dare, però tentare, il prossimo che si avvicini, un sì. bel morso sull'orecchio per vedere sì. se si avesse pensa maturo, trattarlo sì, sì. come un... una pesca, no? No, ma è chiaro. Maturo. Uno può dire così. No, non sei maturo. Esatto, può dire così. Sono un immaturo e quindi palpeggiava le colleghe. Vabbè, no, ma parliamo di cose più serie, non che non sia questa seria, ma insomma è una vicenda di cronaca giudiziaria. Oh, questa storia di Roma, delle case, io... Sentiamo Crozza subito. Crozza ieri a Di Martedì. È che loro non capiscono purtroppo le nostre tradizioni, la nostra cultura. Noi siamo generosi, Giova. Ma dimmi dove lo trovi in Europa qualcuno che ti affitta un trilocale in centro a 20 euro al mese. Dove lo trovi? Il Comune di Roma ha 43.000 immobili e in media per ognuno incassa 50 euro al mese d'affitto e ne sgancia 300 di spese di manutenzione. Tanto che il papà della Boschi direbbe ottimo affare. Vabbè, insomma, la battuta sul papà della Boschi. Paola, fai qualcosa, tu che sei di Roma, fate delle inchieste, ribaltate il mondo, allora, su sta cosa, tutto, no? Io non sono in uno di questi appartamenti. Ecco, diciamolo chiaro, però, diciamolo mannaggia, chiaro. Mannaggia, uno dice, perché la cosa è, quando tu hai detto prima del pane... Il pane fatto... costa, sì, ma che il pane... Guarda, ridevo ma che il pane costa, la signora. E questa però è una... è una, un difetto... del, ovviamente della legge comunale, cioè è il comune che non ha mai aggiornato questi affitti. Sicuramente. Certo che anche chi ci vive dentro, come dire, viveva dentro casa, ma un po' fuori dal mondo, perché è chiaro che pagare 10 euro una casa a Via del Colosseo. Ma capisci, sì, esatto, che non c'è bisogno di spiegare dove si trova Via del Colosseo. La mia sensazione è che invece fossero calati perfettamente forse in questo mondo. Quando vai a beccarli, vedi, hanno tutte queste spiegazioni, come dire, ma cosa volete da me? No, ma c'è quello... Vero che molta gente se l'è passata di famiglia in famiglia, e ci credo, nella serie, erano case popolari queste, per quanto risulti impossibile a credersi, ma erano case popolari. E sì, ecco, va un po' rivisitato come principio. Rivedete sti prezzi, ecco, rivedete sti prezzi. Se ti sposti di un passo, gli affitti sono un'altra cosa nel centro di Roma, come nel centro di Milano, come comunque. Poi, per carità, si va a beccare sempre il capro espiatorio, è classico. Questa Giuseppina Tozzi, 8,74 euro. Adesso ha nome e cognome sui giornali, 8,74 euro, è quella che dice ma il pane costa. E tutti i giornali la beccano, evidentemente qualche nome è filtrato. Ma questa signora poi ha 300 euro di pensione al mese. Ma sì, ma ne ha 400, okay. Però la reazione di tutte è nostro diritto, non siamo dei privilegiati, caro Luca, questo è... Ma c'è una legge, questo è fatto. Allora, queste persone non violano nessuna legge, chiaramente, certo. Perché se io sono pazzo e ti offro una cosa a un centesimo del suo valore, tu la prendi. Però è vero che quando ti beccano, come dici tu, all'italiana, invece di dire ma che cosa volete da me, uno dovrebbe dire... Beh, oh, mi è andata bene fino adesso. Esatto, dovrebbe dire, oh, finalmente uno che se ne accorge, oh, fare un applauso al cronista, bravo, ci hai messo 25 anni, ci avete messo a venire, però finalmente ve ne siete accorti, adesso come la sfagniamo sta cosa? Questa sarebbe una reazione normale, effettivamente. Però Luca, tu che faresti? C'è sempre un dirigente, adesso noi siamo dalla parte del prefetto Tronca, che finalmente dovrebbe mettere... anche fine a questa cosa, soprattutto andando a beccare chi ha firmato quei contratti di locazione, chi non li ha mai aggiornati, esatto. Siamo sempre lì, Luca, no? E Paola, Luca, il pesce puzza dalla testa, o no? Sì, no, quello lì andrebbe preso licenziato, non è mandato a casa, punto e basta, così, Ma no, è così. Oppure uno gli chiede anche un po' di danni, perché non è possibile. Beh, c'è il danno erariale, ha fatto dei danni notevolissimi al patrimonio di Roma. E soprattutto uno dice ci sono le buche per le strade, ecco, fatele riempire a questo signore e alle casse anche il comune di Roma. bel dirigente col bitume, te lo vedi, cara Paola, hai una buca sotto casa che devi sistemare. So, insomma, ma ce n'è non tanto sotto casa quanto ce n'è quanto ne volete. No, vabbè, però magari iniziamo, facciamo una cosa proprio pro domo nostra e pro domo no, tua. No, ecco, sistemati la buca sotto casa. Da... Tanto funziona così in Italia, scusa. Ma nel caso io prendo il bitume e la sistemo da me, che poi anche lì c'è tutta una norma, una regola. Perché ritornano poi le buche? Perché vengono riempite col bitume come capita. E, certo. E invece no, andrebbe fatto tutto un lavoro che puntualmente non viene fatto, ma che cambi questa norma comunale, che si capisca anche che cosa dare a queste persone. Cioè, se ribadisco, una persona ha 300 euro, 400 euro di pensione, certo non puoi chiedergli 1200 euro. Ma va bene, affitto. Ma è chiaro, è chiaro. Ma forse devi trovare una sistemazione, un alloggio popolare, non in centro magari? No, non in centro. Ma soprattutto, più che non in centro, aggiornare nel tempo quelle tabelle, sì, aggiornarle, oltre che avere la lista delle, degli appartamenti, delle case popolari, che giustamente se una persona, ribadisco, è a 400 euro di pensione, magari ha fatto la guerra però a 400 euro di pensione, sono i casi, anche questo purtroppo accade nel nostro paese, non può certamente abitare in una casa, ma da anni non avrebbe dovuto abitare. Ma è così. Aggiornare da anni. Ma poi io vorrei dire anche una cosa, cioè sembra sempre che sia un intervento contro qualcuno, non è appunto un intervento contro questa signora, anche perché il pane costa e ci rendiamo conto, non è contro nessuno, è per la tutela di un patrimonio che, se è pubblico, e le parole hanno ancora un senso, è di tutti, e quindi attraverso questo patrimonio pubblico il Comune di Roma ci guadagna invece di perderci, visto che una casa appunto l'affitta a 100 euro. Ci dovrebbe chiamare la cosa pubblica, ok, Repubblica, questo significa cosa pubblica, allora sì, accurare di più la cosa pubblica, perché poi quando vedi che la cosa pubblica è curata in altri luoghi, in altri posti, in altre capitali, in altre città, rimani sufficientemente senza parole, come dire, ma allora si può fare. È chiaro. No, c'è un ascoltatore che dice, caro Luca, che implementa e migliora addirittura la tua proposta, cioè riempirebbe le buche proprio col dipendente. Ah, beh. Cioè, nel senso che utilizzerebbe il dirigente proprio per riempire la buca. Ma solo dalla mattina alla sera, dai. Poi la notte va a dormire e ritorna il giorno. 8 ore al giorno fa questo, guarda che è un lavoro mica male. Tra l'altro, secondo me ci sono delle buche. Quello che ha fatto finora, cioè. Ecco, alla comunità ci sono delle buche, secondo me, a Roma un po' grandi. Che se si rannicchia uno, anche la cesta, caro Alino, sì, o Alessandro Milan, meglio sì, noto come sì, ci sono delle buche dove ci stanno due dirigenti, no, una persona si entra. Io l'altro giorno ne ho schivata una. Sì. La mia macchina poi esultava, ringraziava, io pure, meno il meccanico che avrebbe dovuto aggiustare la sospensione, si cascava dentro una ruota. Ma perché intera. Roma è così? Banalmente, dammi una spiegazione, ma banalmente perché ha 2000 anni di storia, 3000 anni sì, di storia, 5000 anni. Adesso mi improvviso l'ingegnere, banalmente perché è vuota sotto, non lo so, ma non è che caschiamo in una voragine, banalmente perché probabilmente il lavoro che viene fatto per ritappare la buca, questo sì, viene fatto male. Ma la toppa è peggio. Ho capito, ma lì viene fatto male dappertutto, non solo a Roma, cioè non è che ci sono gli scandali dell'asfalto. No, ma ci sono anche delle buche alle quali ti affezioni, perché alla fine si formano sempre quelle. Esatto. Però siccome sono generose, ogni volta che si formano si allargano un po' di più. E quindi ti fa anche piacere che siano anche, che crescono con te. Sappiamo dove sono, no? Crescono, invecchiano. Sui vestiti dei dirigenti, attenzione. Sui vestiti dei dirigenti le gomme delle biciclette non scivolano, c'è anche questo vantaggio. Esatto, mentre sui San Pietrini sì, effettivamente, guarda che poi se gli mettiamo una giacca un po' di quelle zigrinate che tiene buoni, meglio. Tiene bene la gomma. Dai, si scherza anche se non tanto. Dobbiamo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo. Appunto. A Milano, mi vedo sentire il traffico, dai, dai una botta. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Milan, non c'è problema per Renzi se quelli non lo votano più. Si è assicurato altri voti, 320 euro per le famiglie povere. Sai quanti voti? Ciao Ale, ora chiedi che cosa ci stiamo capendo noi della politica europea, perché Renzi sta sempre a sbraitare, perché non conta niente. Il futuro Presidente del Consiglio sarà Vincenzo De Luca. A riguardo degli insulti alla Meloni per la sua gravidanza, Ecco, in questo caso mi vergogno di essere italiano. I figli sono figli, ogni scarafone è per la mamma sola. Omina, e sono fiorentino. Ho comprato Vanity Fair stamani. Ne è di a Ducatini. Che faccia meno reclami e ci faccia vedere un po' più culi. Ciao. Caro direttore, il fiorentino è così, belle, sì. È così, meno reclam e più culi, questo vorrebbe davanti, pensa tu una vita a fare il direttore in maniera... Posso anche prendere delle reclam con i culi. Sì, esatto. Potrebbe essere così, in una pagina risolvi metti un culo in più, e vabbè, insomma, si scherza, ma il fiorentino è uno così, ci manda i suoi messaggi. Voi due giorni fa non c'eravate, ma ce l'ha mandato uno sull'Iran e su Rouhani. Tu Paola, senti un po' la ricetta del fiorentino su Rouhani, le statue, senti. Omina, sono fiorentino, stai senti. È venuto questo Rouhani in Italia, ha tappato tutte le donne ignude, cioè tutti i nostri musei che sono la fine del mondo. È andato in Francia, non ha voluto né alcol e né vino sulla tavola. Ma lo sai se viene una settimana in Toscana, lo ritrovi a ballare sul Ponte Vecchio col fiasco del vino, una canna in bocca e due maialone da una parte? Sei rude. Ciao. Ecco, è una proposta. È così, il fiorentino è così, salutiamo con una proposta rieducativa, ecco. Riverenza le massime autorità iraniane. Mi faccio serio, fatevi seri anche voi, mettetevi in piedi, se cara Paola Saluzzi, Luca Dini, si scherza, è una battuta, ma il fiorentino è così. Allora, però, tra l'altro Luca Dini, oggi invece la prima pagina non è un bel manzo, come direbbe la nostra amica Aurora Lussana, un bel manzo, Ryan Gosling, uno talmente, vedi le cose, cioè, ci si fa fare la foto pure con lo stuzzichino in bocca, ne ho visto una col cerino in bocca, cioè una roba di un truzzo che se lo facesse Peter Bescapelo prenderebbero a scarpate le donne, no? Però lo fa Ryan Gosling, no? E può avere... Va bene, anzi guarda che figo, tutto lo stesso, guarda che figo con lo stuzzicadenti in bocca Ryan Gosling, no? Su Vanity Fair. No, però la settimana scorsa c'era l'intervista al mio mito, e l'ho dichiarato, Franca Leosini. Allora, perché la cito? Perché? Perché Franca Leosini è nella bufera e nessuno mi tocchi la Franca, su un tema molto delicato, sul quale mi voglio addentrare. So che Paola, poi è un tema a te molto caro, come dovrebbe essere a tutti. Il fatto che nelle ultime 48 ore tre donne siano state uccise da uomini. E in che modo? Esatto, in modi brutali e in giro per l'Italia. Che succede? Che Franca Leosini è nella polemica perché ha intervistato, e domani manderà in onda, io lo seguirò in religioso silenzio come sempre, il mandante condannato in primo grado in appello dell'aggressione a Lucia Annibali, colei che è stata sfigurata con l'acido, no? E c'è una polemica sul fatto se sia opportuno o no mandare in onda. Il procuratore dice è una vergogna che la RAI dia spazio. Io dico sempre: nessuno mi tocchi Franca Leosini. Ma mi fermo e voglio sentire il vostro parere. Luca Dini, tu che ne pensi? Mandarla in onda, ma, no? Mandare in onda non vuol dire sicuramente il caso di Franca Leosini. Attutire minimamente il senso di sdegno per quello che è successo. Su questo non c'è dubbio. E per quello che deve pagare. Quindi non so, sai, io sono sempre dell'idea che conoscere sia meglio che non conoscere. Ma guarda, io sono talmente d'accordo con te. Ricordo sempre l'insegnamento del mio maestro Giancarlo Santalmassi, che diceva: ricordati che non ci sono mai argomenti tabù, ma solo modi di trattarli tabù, semmai. E siamo al punto. È la intervista di Franca Leosini. Ecco, cioè, è una garanzia. La garanzia di chi fa le domande e di chi riceve le risposte, e quindi di conseguenza sa partire con la prossima domanda, è quella di una persona che di per sé rappresenta una garanzia vivente. Queste persone vanno guardate. Io vorrei tanto guardare negli occhi Paolo Pietro Paolo, che ha dato fuoco con la tanica di alcol, chiedendo prima la macchina in prestito per andarla a comprare la tanica di alcol, alla mamma della propria figlia, che implorava, quando le è stato versato l'alcol addosso, pietà. Ma infatti il fatto di, allora, di parlare, di forse di guardare negli occhi e sentirle parlare, persone, esatto, perché non hanno il cartello mostro, non si sono messi la maglietta io sono un mostro, per cui uno dovrebbe allontanarsi ed evitarli quando li vede. No, sono persone che la mattina hanno fatto colazione, certo, perché l'ora è questa. Certo, sì, le classiche persone normali, okay, tra virgolette, fino al secondo prima di queste cose. E tu hai un sussulto, perché pensi che quello che ha ucciso la moglie picchiandola con la bambina incinta, la bambina di quasi 9 mesi in pancia, e poi ha detto c'è stata una rapina, sono venuti gli albanesi in casa mia e oggi è chiuso in una cella, fosse l'apoteosi, cioè io ti ammazzo perché non ti voglio come moglie e non voglio il bambino che hai nella pancia. Questo ti ammazzo perché sono geloso di te, sì, per Dio solo sa quale motivo, e non è neanche che lo si debba andare a cercare in una vita senza, come posso dire, una vita difficile. No, era anche uno che aveva la vita facile e le ha dato fuoco. Certo. Allora questa gente bisogna vederla in faccia. Ma infatti secondo me la polemica è ovviamente del procuratore capo, che dice tra l'altro questo, ma soprattutto motivi, dice Luca Varani non ha mai parlato neanche durante i processi, non ha mai, quindi sarebbe stato meglio che avesse parlato durante, spiegando, e invece parlerà domani per la prima volta in un'intervista televisiva. Posso capire, ma ha ragione il procuratore, perché questi dovrebbero parlare quando sono i processi, dovrebbero parlare. Non puoi nasconderti dietro il non dico, è chiaro. Perché l'hai fatto, bastardo schifoso, l'hai fatto, e con te sono pronti un esercito di bastardi schifosi a quest'ora, che sanno che domani si libereranno così della ex, e tutto sommato non avranno la punizione che meritano, tutto sommato, tranne che la legge è legge e ovviamente va fatta rispettare, certo, ma non avranno quanto basta. Comunque, ripeto, domani vedremo. Io sono assolutamente dell'idea che, visto che ci sono tutte le autorizzazioni del caso, l'intervista è stata fatta, che sia folle l'idea di bloccare. Capisco che anche Lucia Annibali dica è una cosa che mi provocherà dolore, questo sì. È inevitabile, cioè nessuno può non metterlo in conto, però dice lei stessa, vedremo se per la prima volta chiederà scusa per quello che ha fatto, cioè racconterà quello che ha fatto. E quindi sì, io mi devo fermare. Allora, Paola Saluzzi alle 15 ovviamente su Sky TG24 pomeriggio. Luca Dini, a parte mettere dei truzzi in copertina, no scherzo, mamma mia, scusa, quella invidia è una brutta cosa, l'invidia per la bellezza. Ryan Gosling in copertina nel numero di Vanity Fair che trovate in edicola. Mi raccomando, fai tu, poi il Fiorentino ha dato un consiglio, ma vale uno, come non è che valga quota. è una quota, insomma, il Fiorentino avrebbe una ricetta per Vanity Fair, ma vedi tu, ci affidiamo ovviamente alle tue somme decisioni inequivocabili e inderogabili. Grazie direttore, ci sentiamo alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano speciale Sanremo, alle 15.30 rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino.